24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Due le notizie oggi in primo piano: il no europeo all'apertura delle frontiere dello spazio Schengen a Bulgaria e Romania, una pesante battuta d'arresto per l'integrazione dei due paesi nell'area di libera circolazione, e il giovedì nero delle borse europee che sono letteralmente crollate sotto i colpi della crisi. Vi porteremo anche in Grecia per lo sciopero che ha paralizzato il paese e vi racconteremo una controversia che riguarda i cittadini rom in Ungheria. Bulgaria e Romania restano fuori dallo spazio Schengen, Olanda e Finlandia hanno confermato la loro opposizione all'ingresso dei due paesi. La presidenza di turno aveva tentato di far avanzare la soluzione di un'apertura a tappe, ma L'Aia ed Helsinki hanno confermato il loro no. Abbiamo voluto impedire di prendere oggi una decisione che un domani potremmo rimpiangere, così Geert Leers, ministro dell'immigrazione del governo olandese, ha commentato la scelta del suo paese. L'Italia era favorevole all'ingresso in due tempi di Romania e Bulgaria in Schengen, così il sottosegretario all'interni Sonia Viale. Abbiamo aderito alla posizione di compromesso proposta dalla presidenza, ha detto la Viale. Prevedeva l'ingresso di questi due paesi in due momenti distinti, prima le frontiere aeree e marittime, successivamente quelle terrestri. Occorre però l'unanimità, quindi c'è una posizione di stallo, ha spiegato. E sempre Roma ha espresso una posizione sostanzialmente favorevole alla proposta di riforma della governance di Schengen presentata dalla commissaria europea Cecilia Malmström. Altri paesi hanno invece espresso contrarietà o comunque perplessità nei confronti di un progetto che punta ad evitare decisioni unilaterali di chiusura delle frontiere. E ora, come abbiamo annunciato nel sommario, l'economia con un'altra giornata nera per le piazze continentali. Parigi ha perso il 5,25%, Francoforte il 4,96%, Londra il 4,67%. Una vera e propria caporetto per le piazze d'affari, pagato circa 270 miliardi di euro in capitalizzazione sfumata. E vanno male le banche francesi. Un'altra giornata nerissima per le banche francesi. Nell'ultima seduta Société Générale ha perso il 9,6%, Crédit Agricole il 9,5% e BNP Paribas il 5,7%. Nell'ultimo mese il calo è compreso tra il 19 e il 25%, negli ultimi tre mesi tra il 54 e il 58%, ben più dell'indice delle banche dell'Eurozona. A pesare su Société Générale è una diffidenza del mercato che non è praticamente mai cessata dall'affare Kerviel, il trader che fece perdere 5 miliardi alla banca nel 2009. Molti investitori ritengono che la riconversione verso un maggior peso delle attività commerciali rispetto a quelle più speculative sia ancora insufficiente. BNP e Agricole sono penalizzate dall'elevata esposizione nei confronti del debito pubblico italiano, rispettivamente per oltre 20 e poco meno di 9 miliardi. Su questi elementi di fondo si innestano voci sempre più insistenti di una ricapitalizzazione forzata o addirittura di una parziale nazionalizzazione. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Veniamo ora all'Italia, anche Piazza Affari ha chiuso in negativo, Milano meno 4,52%. La Fed ha spaventato le borse europee. All'indomani delle previsioni fosche sull'economia da parte dell'Istituto Centrale Americano, i listini sono infatti andati a picco. Francoforte e Parigi hanno guidato i cali, risentendo anche della notizia che sei paesi del G20 hanno chiesto all'Europa di agire rapidamente per arginare le tensioni sul debito. Milano ha fatto leggermente meglio, con un calo del 4,52%, dopo le parole con cui il commissario dell'Unione Europea Olli Rehn ha escluso aiuti per l'Italia. A Piazza Affari sono state vendute a piene mani le azioni industriali, quelle più legate al ciclo economico. Pirelli ha accusato un tonfo dell'8,2%, Tenaris dell'8,8% e Fiat Industrial del 5,7%. Sono scivolate ancora le Fiat SPA a meno 4,5%, risentendo sempre del taglio del giudizio da parte di Moody's. Hanno fatto abbastanza male anche le banche, fatta eccezione per le BPM che si sono impennate del 4,88%, mentre è scattato il conto alla rovescia per il consiglio di amministrazione che si terrà martedì e che discuterà la governance dell'istituto. Sono inoltre tornate a circolare le voci per un coinvolgimento di Matteo Arpe e del suo fondo Sator nell'operazione di aumento di capitale. Anche Mediobanca ha chiuso invariata dopo che il socio francese Bolloré ha detto che sta acquistando azioni. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Non prevedo che ci sarà alcun bisogno di un piano di soccorso per l'Italia, lo ha affermato il commissario agli affari economici Olli Rehn. Rehn ha sottolineato che da un punto di vista fiscale non c'è alcun bisogno di chiedere di più all'Italia. Prosegue e si fa sempre più marcato il calo della fiducia dei consumatori europei sulle prospettive dell'economia. A settembre, secondo la Commissione europea, l'indicatore della fiducia dei consumatori è passato dal meno 16,8% di agosto al meno 19% in Europa. E in Grecia, nuova giornata di sciopero contro le misure di austerity decise dal governo per fronteggiare la crisi. Da Atene, il giornalista Vittorio Darolda al microfono di Maria Piera Ceci. Il paese è completamente paralizzato, sono fermi naturalmente i trasporti pubblici, sono fermi i taxi, si fermano anche per 3 ore i controllori di volo, e quindi è veramente una situazione molto molto complicata per il settore del turismo. Inoltre ci sono manifestazioni organizzate dai sindacati, degli insegnanti, e ci sono altre manifestazioni proprio di fronte al Ministero delle Finanze da parte del PAME, che è il sindacato vicino al Partito Comunista. A questo punto cosa può succedere, Vittorio? Nel senso che ci sarà l'incontro con la Merkel, ma qual è la sensazione verso la quale si va a livello politico? Dunque, la sensazione è che il Papandreou stia cercando di ampliare la propria maggioranza. Oggi il maggior quotidiano del paese, Katimirini, chiede a gran voce un governo di unità nazionale, chiedendo appunto alla neodemocrazia e al partito conservatore all'opposizione di unirsi, ma il leader dell'opposizione, Samaras, ha già fatto sapere che non è d'accordo e ha chiesto elezioni anticipate, che sarebbero un ulteriore problema nel problema appunto della crisi economica. Il Consiglio europeo ha deciso di scongelare gli asset controllati dalla Libyan Investment Authority, società nel cui portafoglio si trovano importanti partecipazioni in Finmeccanica, Unicredit e Juventus. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio, che ha anche revocato parzialmente l'embargo sulle forniture di armamenti. E fa intanto discutere una decisione del Parlamento ungherese, perché prende di mira soprattutto i cittadini di etnia rom. Lavoro sottopagato in cambio di sussidi colpisce soprattutto cittadini di etnia rom. Lo scambio non equo che si sta consumando sotto gli occhi dell'Europa in un villaggio a nord dell'Ungheria e presto in tutto il paese. È un progetto approvato dal Parlamento ungherese, ha stabilito che i disoccupati, appunto soprattutto nomadi, si prestino al lavoro volontario, che di fatto diventa forzato perché non presentarsi comporta la perdita del sussidio. L'iniziativa è partita dalla zona in cui si concentrano per tradizione gli accampamenti nomadi e dove ci sono già stati incidenti tra i militanti del movimento dell'estrema destra nazionalista Jobbik, che controlla la municipalità locale. I lavoratori coatti prestano attività di fatica per 8 ore al giorno, dalla pulizia delle strade ai campi alle costruzioni, e ricevono un salario inferiore o pari a quello sociale minimo, controllati a vista. Vecchi e malati e genitori con bambini sono esonerati dai turni, ma sono già migliaia i rom coinvolti, e l'iniziativa su scala nazionale arriverà a reclutare in questi cantieri di pubblica utilità ben 300.000 persone. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Kosovo le autorità di Pristina hanno avvertito che interverranno per togliere le barricate e i blocchi stradali messi in atto dai serbi del nord se l'Unione Europea non riuscirà a convincere Belgrado a fare pressioni sui serbo-kosovari. Se la pressione europea su Belgrado non produrrà alcun risultato, saremo costretti a coordinarci con la KFOR ed Eulex per consentire il ripristino della libera circolazione delle persone e delle merci, togliendo le barricate al nord. Così ha detto il ministro dell'interno kosovaro Bajiram Reksepi. Chiudiamo con lo sport. Corsa olimpica per il 2020 in pieno svolgimento e Roma mette a punto la squadra per vincere. Nominato il primo ambasciatore della candidatura romana, l'onorevole Sandro Gozzi, che indica proprio nelle europee Istanbul e Madrid le rivali più temibili. Lo ha intervistato Dario Ricci. La corsa è una corsa molto difficile, la competizione è dura e serrata. Noi però abbiamo tutti i numeri e le carte in regola nella prospettiva 2020, cioè una prospettiva veramente paese, di sistema paese, per correre e per farcela. Io credo che certamente tutte le candidature abbiano dei punti di forza notevoli. Credo che la candidatura più insidiosa, per tutta una serie di motivi, sia quella di Istanbul, e lo credo perché la Turchia è un paese che ha molta influenza ed è in ascesa, perché ha tanti contatti importanti che sta sviluppando nel Mediterraneo, in Asia centrale, con i paesi, con i cosiddetti BRICS, cioè con le nuove potenze emergenti, e credo quindi che la corsa, diciamo, nel plotone di testa ci siano Roma e Istanbul, e che la cosa sarà un testa e testa con i turchi. Questa almeno è la nostra valutazione, senza ovviamente sottovalutare candidature importanti come quelle che lei ha ricordato, come certamente Madrid, Tokyo, Baku, Doha, insomma, tutte sono